Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Qualche giorno fa un architetto mi ha raccontato di aver visto i primi casi di compravendite di immobili che falliscono davanti al notaio a fronte della presentazione di una classificazione energetica in classe E o in classe F. Insomma, è un fenomeno nuovo che segnala che qualcosa sta succedendo nella cultura edilizia. Come sapete, la certificazione energetica è divenuta obbligatoria negli atti di compravendita immobiliare, ma l'attuale sistema di certificazione, ne abbiamo parlato qui a Mr. Kilowatt, è piuttosto approssimativo, soprattutto per come poi è stato attuato dagli enti preposti che in molti casi, e qui mi riferisco soprattutto alle regioni, non hanno curato la qualità della procedura di certificazione. Esistono però diversi tipi di certificazione ambientale volontaria che sono molto più curati, che garantiscono le prestazioni energetiche degli edifici. Cerchiamo allora di capire quali sono le più importanti tipologie e in cosa differiscono. Ci facciamo aiutare da Graziano Lento, che è esperto in progettazione dell'efficienza energetica. Buonasera Lento. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, quali sono intanto quindi i principali sistemi di classificazione ambientale? Allora, i principali in Italia sono soprattutto LEED, che è una certificazione che proviene dagli Stati Uniti, che è arrivata in Italia anche da quest'anno, Casa Clima, che è abbastanza presente soprattutto sul territorio del Trentino e si sta diffondendo nel resto d'Italia, e in più c'è anche Protocollo Itaca, che nasce dalla conferenza regioni province autonome. Ecco, questi modelli che cosa hanno in comune e invece in che cosa differiscono? Ma allora, in comune hanno, come dicevi prima, che sono volontarie, sono di qualifica, quindi non attestano un minimo certificabile, ma garantiscono tutte, diciamo, un'ottima qualità sia dell'involucro che anche del processo sia di progettazione che poi di gestione del cantiere, e tendono tutte a dare, diciamo, a far diventare l'edificio sostenibile, passivo, quindi con un'alta performance energetica. Ecco, quindi non c'è semplicemente un punteggio che viene dato, cioè, come dire, vincola in qualche modo il processo prima di progettazione e poi di costruzione? Sì, assolutamente sì. La progettazione è la parte in cui scaturisce l'idea migliore, quindi in cui già la performance energetica, grazie alle nuove tecnologie, può trovare già dei risultati e degli spunti importanti. Si pensi banalmente a come inserire un edificio rispetto all'ombreggiamento solare, quindi del sito, del cantiere, quindi a spostarlo di determinati gradi, oppure a lavorare da subito su quelle che sono le caratteristiche dell'involucro edilizio e del comfort interno. In base a queste attività si gestiscono tutta la filiera dei materiali e tutto quello che poi viene fatto nella produzione dell'edificio stesso. Insomma, quindi è molto diversa dalla certificazione a cui siamo abituati, la quale semplicemente fa un bilancio fra le attività e le passività, insomma quanto disperde la casa, quanto eventualmente riesce ad approvvigionarsi con fonti esterne, possibilmente rinnovabili, e dice va bene, allora tu consumi un po' più o un po' di meno, ti do un punteggio. Invece questi sistemi servono ad accompagnare la progettazione più che a dare un punteggio alla fine. Questo lo possiamo dire? Insomma. Assolutamente sì. Okay. Una progettazione illuminata fa nascere da subito determinati prerequisiti, per cui il LEED, che negli Stati Uniti è legge e in tutto il mondo è conosciuto, ha un punteggio per esempio fino a 100, oppure arriva fino a Gold, oppure Casa Clima fa delle cose molto interessanti, oppure il Protocollo Itaca lavora per esempio per criteri da 1 a 5, dando a 5 il top della progettazione e poi della qualificazione di tutta la filiera. Ecco, al di là delle modalità poi di attribuire dei voti, questi sistemi invece in che cosa differiscono? Quindi Itaca, LEED e Casa Clima? Molto velocemente, il Protocollo Itaca lavora soprattutto sulle regioni, quindi dove le regioni hanno competenza, quindi hanno inserito questo protocollo, queste linee guida facilmente recuperabili su internet per gestire tutti gli edifici regionali. Ci sono differenti valutazioni, dalla qualità del sito fino alla qualità dell'ambiente, diciamo a tutta una serie di criteri abbastanza interessanti. Secondo me tutte e tre le classificazioni hanno delle cose interessanti. dream building, cioè lead, crediti legati a tutta una serie di attività, non solo legate all'involucro, ma anche a quello che accade sull'esterno. È molto interessante, per esempio, leggere che si recuperano dei punteggi lavorando su una filiera corta, quindi nel caso in cui i materiali vengono prodotti entro un raggio di 350 km dall'abitazione. Quindi c'è una maggiore attenzione a questo aspetto. Invece Casa Clima, qual è la vocazione di questa, che è tutto sommato la certificazione più diffusa in Italia? Sì, Casa Clima, anche per ragioni storiche, è la più diffusa ed è legata soprattutto a quello che è l'involucro edilizio, quindi si basa soprattutto sull'involucro e poi sulla parte degli impianti, ed è veramente molto, molto stringente come diciamo certificazione, perché controlla sia la progettazione che anche il cantiere, per cui ci sono delle persone preposte a certificare che il cantiere sia fatto come previsto da queste procedure. Ecco, è tale il successo, insomma, anche nella pratica di questo sistema, che ormai è presente in Trentino, soprattutto nella provincia di Bolzano, sì, da un bel po' di anni, che a Bolzano sembrano impazziti. Sì, in effetti la provincia di Bolzano per il 2020 si è dato un obiettivo molto diverso rispetto a Kyoto, oppure all'Europa, a tutto il resto. Hanno previsto di essere a emissioni zero, quindi tutta la provincia di Bolzano, per il 2020. Faccio anche un esempio banale, c'è un edificio che è rimasto così come case history in Casa Clima, è quello dell'edificio ex Poste di Bolzano, che adesso c'è l'amministrazione provinciale. Bene, questo edificio, con un intervento di ristrutturazione, è stato portato da una spesa di 95.000 euro per il riscaldamento all'anno a meno di 5.000, quindi a meno di 7 kWh per metro quadro. Beh, questo è semplicemente appunto roba da pazzi. Grazie, sì. Lento. Grazie a lei. Bene, a proposito di cose da pazzi, domani parliamo della normativa per quanto riguarda gli impianti mini idroelettrici. Buona serata.